Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va? E bentornati Fumetti a Sinistra, un mondo dentro al balloon, che oggi affronta un argomento che mai avremmo voluto affrontare, ovvero sia la possibilità della perdita di un bene nazionale nel mondo dei fumetti. Parliamo dello sfratto che ha colpito il WOW, il museo di Milano dei fumetti, il più grande museo italiano, che nonostante la più che comprovata grande attività nel campo dei fumetti, dell'educazione, anche come presidio culturale in un quartiere un po' alla periferia milanese, viene colpito, non sappiamo se da una burocrazia cieca, da voglie di gentrificazione, ovvero sia di speculazione del cemento. Di fatto che in questa chiacchierata di Morena Moretti con Luigi Bona, direttore del WOW stesso, il rischio di perdere questo bene di Milano e non solo di Milano esiste e come. Nonostante una grande solidarietà che arriva dal mondo stesso dei balloon, da tanti autori, dalla popolazione del quartiere, ma questo almeno per il momento sembra non incidere nelle volontà della giunta comunale di Beppe Sala a Milano. Dopo lo stacchetto musicale andiamo con questa intervista e naturalmente il CRAP solidarizza con il WOW di Milano e invita a firmare la petizione popolare per la sopravvivenza di questo importante centro culturale. Luigi Bona, dopo 14 anni di attività, il WOW, che è il Museo del Fumetto di Milano, è sottostato. Allora, per chi non lo sapesse, questo è un luogo di rilevanza nazionale e internazionale, ha svolto in questi anni migliaia di iniziative tra esposizioni, convegni, workshop, ha ospitato i più grandi artisti della non arte, insomma un luogo di ricerca, crescita culturale, insomma in una città come Milano, che dovrebbe avere tutto l'interesse a preservarlo. Cosa sta accadendo? Tu sei il direttore di questo gioiello, che cosa sta accadendo? Perché li mandano via? Insomma, questo è il fatto. Il problema è che la convenzione firmata con il comune 14 anni fa adesso è scaduta in questi giorni e per rinnovarla il comune potrebbe essere rinnovata in realtà di un paio d'anni, perché avrebbero potuto rinnovarla per un paio d'anni in più, e forse su questo stiamo lavorando per vedere e trovare una quadra, almeno per prorogare e capire meglio con il comune cosa intende fare. Arrivata a scadenza questa cosa, noi non potremmo neanche partecipare a un nuovo bando, non potremmo neanche ripresentarci, non fa niente, perché abbiamo un debito col comune ancora nel senso che si è formato soprattutto per colpa del Covid, chiaramente. Le attività del museo stanno andando bene, ma sono tornate a livello normale, diciamo, soltanto da meno di un anno. Quindi pagare su tutto subito al comune, una cifra che poi per un museo non è una grande cifra, sono 150.000 euro alla fine che adesso dobbiamo al comune. Per un privato può essere tanto, ma per una struttura no, evidentemente. Certo. Tra l'altro state rifondendo, così mi dicevi. Sì, infatti l'anno scorso abbiamo dato 40.000 euro, più abbiamo anticipato delle spese, più altre cose, certo. Quindi assolutamente stiamo andando avanti, però scade e volete tutto subito il giorno prima della scadenza, perché altrimenti non si può più, e questo non va mica bene, no, è impossibile chiaramente, anche in considerazione del fatto che negli ultimi 5 anni il comune non ci ha mai dato un centesimo, quindi nessun supporto istituzionale dal comune, eccetera. Viviamo soltanto della nostra attività, quindi è una cosa assolutamente anomala se pensi che i musei normalmente hanno un finanziamento intorno superiore, secondo il Sole 24 Ore, al 50% del loro bilancio. Quindi noi invece no, noi ce la caviamo da soli, stiamo lavorando come dei matti e facendo attività che sono enormi. Noi abbiamo avuto in 14 anni 1 milione di visitatori. Abbiamo fatto 200 mostre da noi, abbiamo fatto oltre 50 mostre fuori museo, quindi in altre città e perfino in altre nazioni. Abbiamo 5.000 iscritti ai nostri laboratori, quindi siamo tornati ai numeri pre-Covid e li stiamo superando. Campus estivo, anche durante il Covid siamo riusciti a fare il campus estivo, quando tutti, nessun altro museo a Milano l'ha fatto. Insomma, stiamo veramente facendo cose di cui siamo anche orgogliosi, voglio dire. E possiamo andare avanti, abbiamo la struttura per andare avanti e tutto. È una questione burocratica. Hanno bisogno di una fiduzione per 150 qualcosa, una garanzia, no? Che noi possiamo pagare questi 150.000, allora possono vedere, no, in qualche modo. Luigi, ma quanto tu dici che è una questione burocratica, sì, una specie di la burocrazia cieca, ci sarà anche dell'insipienza, ma il rapporto con il comune, quindi tu mi dici che in questi non anni... esiste. Ecco, questo poi è il punto, per cui un presidio culturale anche su un territorio importante, perché Milano è un territorio importante, in questo caso siamo anche in una prima periferia, quindi voi coprite anche di un quartiere come presidio, certo. Immagino, culturale. Sì, sì, infatti, infatti. Tutto questo non è rilevato, non viene colto. Beh, pacche sulle spalle, sì, per carità. L'assessore dice che può dichiarare tranquillamente che siamo un orgoglio per la città. Però, di fatto, l'assessore attuale, che è stato eletto, non era mai venuto al museo. È venuto adesso, ma così più per parlare di questi problemi che non per vedere effettivamente cosa facciamo. È venuto al museo chiuso per dare un'occhiata così, per parlare con noi, dopo che è uscita la campagna stampa. L'assessore precedente non veniva anche lui da tempo, perché si occupava d'altro, si occupa di musica e quindi ha preferito magari seguire altre cose, non lo so. Sta di fatto che noi non abbiamo rapporti effettivi, meno che mai costruttivi in qualche modo con il comune, se non da parte nostra. Noi abbiamo partecipato a delle cose che il comune ha fatto, gratuitamente facendo delle iniziative, abbiamo supportato così alcuni progetti, alcune cose che faceva il comune, sempre gratuitamente, perfino il municipio 4, il municipio che prima con una gestione di sinistra ci aveva aiutato molto e avevamo fatto delle cose insieme, anche con associazioni, con cose, eccetera, quindi bello, vitale come cosa. Poi con la giunta di destra, comunque, un po' meno, ma comunque siamo andati avanti e comunque abbiamo fatto delle cose. Adesso con una gestione, sia pure di sinistra, niente. Il vuoto. Ci ignorano completamente, anzi... le ultime cose che hanno fatto sembrano quasi di boicottaggio. Ma è una situazione assurda. Abbiamo fatto una mostra sulla città di Milano, bellissima, con materiali originali straordinari dei maggiori autori, una cosa incredibile, con documenti d'epoca, giornali, eccetera, come sempre le nostre mostre, no? È venuta un sacco di gente a vederla, ma non una persona del Comune di Milano. Sono venute delle persone che lavorano negli uffici, ma nessuno... del comune. Il sindaco, vabbè, non ce l'aspettiamo, si occupa d'altro, ma almeno dalla parte della cultura. È preoccupante, ma Luigi, tu ti sei stato Luigi Bona, adesso magari una domanda un po' particolare, ma un'idea di quale città, di che città vogliamo, di che Milano vogliamo, ma potrebbe essere anche Bologna, dove si chiudono anche quei spazi, cioè qual è la città che viene immaginata dalla, chiamiamola così, politica oggi? A Milano oggi il concetto è che tutto, ma tutto, sì, tutta la città deve essere messa a reddito. Cioè il comune, tutto quello che ha, deve essere messo a reddito e tutto quello su cui riesce a mettere le mani deve essere messo a reddito. Per cui la faccenda dei campi gioco, le cose, eccetera, a reddito. Ma reddito per chi? Non per la popolazione, non perché poi questo ricada sulla gente, ma per i costruttori soprattutto. La paura, infatti, qualcuno ci ha detto, ma forse qualcuno ha messo gli occhi anche su di voi, sulla vostra zona. Ma è una zona abbastanza secondaria, non dovrebbe essere. Hanno interi spazi immensi dove non fanno niente da decenni, per cui che si arrangino lì a fare e costruire. Invece anche noi ci troviamo in questo problema. Tanti hanno questi problemi, dal Museo Leonardo in galleria a altri che riversano un sacco di soldi sul comune, ma si trovano che il comune vuole avere ancora di più. È una situazione pazzesca. Da milanese io sono angustiato da questa visione della città, perché perfino il Duomo di Milano, ci ha portato un'amica l'altro giorno, passavamo di lì, quindi sono entrato, ho detto vieni dentro un attimo a vedere, ma bisogna pagare per entrare. No, per fortuna, se sei un fedele, ti possono lasciare entrare in un pezzettino del Duomo. Però anche il Duomo ha i mercanti dentro, il Duomo non è più il Duomo. Una volta andavo al Duomo, senza bisogno di essere un fedele o altro, non andavo tanto per pregare o che so io, no? Io andavo per essere in un posto bellissimo, tranquillo, stare con me stesso a pensare, era fantastico, era un luogo delizioso. Adesso hai il turismo, hai i ticket, hai le guardie che ti perquisiscono, hai le cose, cioè è tutta un'altra impostazione. Tutta la città è così. E dove c'è un forte reddito deve essere ancora più forte. Se tu hai un negozio, domani possono buttarti fuori perché devono aumentare l'affitto e se tu non riesci a pagarlo, vai. Invivibile, i giovani scappano, il 20% dei giovani, no? Come sappiamo, sì. I numeri ufficiali, sì. Se ne vanno, se ne sono andati e non tornano per la maggioranza. Quindi è una città che sta invecchiando, ma perché c'è questo problema? I giovani che ci sono giovani che vengono per studiare, ma poi non sanno dove andare a dormire, non sanno come starci a Milano. Abbiamo un traffico allucinante perché centinaia di migliaia di persone che devono in qualche modo andare a Milano per lavorare negli uffici, ormai c'è solo terziario. A Milano, città grande di fabbriche, eccetera, ormai di tutte le grandi fabbriche, Pirelli, tutte quelle che potete pensare, sì. C'è rimasta soltanto una, la Branca. Gli altri sono tutti uffici commerciali sostanzialmente, anche delle grandi marche rimaste eventualmente. E queste notizie che ci dai, questo che ci stai raccontando, Luigi, ci preoccupa molto perché Milano comunque è, diciamo, il laboratorio del bene e del male di quello che poi accade anche in altre città. Purtroppo è così, lo è sempre stato. Però veniamo a qualcosa di positivo che intorno a questa notizia c'è stato un moto di indignazione e mobilitazione. Di solidarietà straordinaria, devo dire, ma sicuramente meritata anche dalla cittadinanza, da altri. Io conosco la solidarietà dei fumettisti perché sto seguendo questo astero contro lo sfratto, eccetera. Ci racconti un po' di queste. Sì, questa cosa è nata da autori, sì, sì. È fatta tra gli autori, noi ci mettiamo a condividere le cose che arrivano. E manco tutte, cioè noi stiamo anche a seguirle tutte, stanno occupando qualcuno del museo. Ma sono centinaia, ma forse sono arrivate le migliaia ormai. Sì, è una cosa veramente impressionante, bellissima, anche oggi ho visto la Silvia Zic, ho visto altri stanno preparandole, quindi veramente molto bello. E questo da parte di autori, no, soprattutto, ma anche della gente. Abbiamo fatto una raccolta firme, il solito change.org, no? Niente di particolare. Che lo troviamo sul sito, diciamolo così, tutti quelli che vorranno firmare potranno farlo. Sì, certo. E con change.org abbiamo già, non ho guardato adesso invece i numeri, comunque eravamo oltre 7.500, 7.600, stiamo andando in su, in pochi giorni, voglio dire. E continuano a crescere. Ma anche una raccolta fondi che abbiamo cominciato a impostare, dai 3 euro a tanto di più, dato anche da autori addirittura, che non è che tutti navighino nell'oro, però vogliono aiutarci perché sanno che purtroppo è un problema anche economico, che comunque ci ha messo in ginocchio, anche prendendosi la fideiussione bancaria, eccetera, che avevamo firmato, e quindi in realtà siamo andati in rosso col conto, stiamo adesso ripareggiando i conti, no? Fatica chiaramente, tutto lavoro, i nostri dipendenti però devono essere pagati, le nostre cose devono essere pagate, quindi il tempo di rimetterci anche un po' in piedi e poi sapendo se possiamo continuare, perché altrimenti rischiamo di cancellare tutto e cancellare soprattutto anche le professionalità che abbiamo creato. A parte i nostri 5 dipendenti interni che seguono i vari settori, io e altri non ci siamo ovviamente tra i dipendenti, non prendiamo nessuno stipendio, lo facciamo perché vogliamo farlo, ma ci sono tanti che lavorano per laboratori, per tutto, insomma il museo ha tante cose che devono essere fatte, quindi c'è un bel indotto e tutto questo verrebbe cancellato di colpo, un colpo di spugna. La gente del posto viene a firmare, la gente del posto, la gente della nostra zona viene tantissima a firmare, sono ormai centinaia e centinaia di firme, perché non vogliono che il luogo diventi quello che era prima. Noi siamo entrati in questa struttura perché ci piaceva, l'idea anche del giardino che stava ancora formandosi, eccetera, perché ci sembrava l'ideale per fare una cosa come volevamo farla noi. E infatti ha funzionato. Ma prima c'erano siringhe preservativi dove noi, adesso c'è invece il nostro bar, c'è il giardino, ci sono le mani. Il luogo degradato. Un luogo completamente degradato. E sono terrorizzati dal fatto che tornerà a essere degradato. già adesso trascurato comunque dal comune, perché il comune trascura tutto, trascura anche il giardino, eccetera. E però, bene o male, viene vissuto bene e ci siamo noi a presidiarlo, no? Senza di noi diventa un disastro anche la zona. Quindi vengono famiglie, due ragazzini che sono venuti l'altro giorno e mi hanno commosso, perché avevano lo skateboard sotto il braccio, perché c'è anche una pista di skateboard nel giardino grande, no? E sono andati per firmare anche loro, però erano minorenni, quindi non abbiamo fatti firmare. Erano dispiaciuti di non poter firmare, ma comunque hanno tirato fuori tutti i soldini che avevano in tasca per metterceli nella cassetta. Questo veramente è una grandissima soddisfazione, perché vuol dire che il vostro lavoro è un lavoro che è riconosciuto e questi probabilmente sono i segnali più veri che potete raccogliere. Luigi, noi ci aggiorniamo e speriamo che la cosa vada a buon fine, che il WAVO naturalmente continui a vivere, e però rimaniamo aggiornati sulle notizie che spero siano, in futuro siano buone. Chissà. Speriamo veramente, un po' per tutto il mondo del fumetto e di quelli che amano questa forma di comunicazione. Grazie. Un grande abbraccio. Grazie. Grazie, auguri anche a voi. Ciao. Avvolti in luci di mantelli, guanti di pelle e sciarpa nera, hanno le facce mascherate, le scarpe a punta lucidate, sono nascosti nella sera. Non fanno niente, stanno fermi, sono alle porte di Milano, con dei grossissimi mastini che stanno seduti i loro piedi e loro tengono per mano. Han circondato la città, la stan guardando da lontano, sono imponenti e silenziosi, chi sono? Chi sono? I laureati e gli studiosi. E l'Italia giocava alle carte e parlava di calcio nei bar, e l'Italia rideva e cantava. Ora si muovono sicuri, coi loro volti mascherati, gli sguardi fissi minacciosi, vengono avanti silenziosi, i passi lenti cadenzati. Portano strane borse nere, piene di oggetti misteriosi, e senza l'ombra di paura stanno occupando i punti chiave, tengono in pugno la questura. Agli occhi chiari dei mastini parte una luce molto intensa che lascia tutti ipnotizzati, chi sono, chi sono? L'intelligenza, gli scienziati. E l'Italia giocava alle carte e parlava di calcio nei bar, e l'Italia rideva e cantava. Lavorano più in fretta, hanno moltissimi alleati, hanno occupato anche la RAI, le grandi industrie, gli operai, anche le scuole, i sindacati. Ora si tolgono i mantelli, son già sicuri di aver vinto, anche le maschere van giù, ormai non ne hanno bisogno più, son già seduti in Parlamento. Ora si possono vedere, sono una razza superiore, sono bellissimi e hitleriani, chi sono, chi sono? Sono i tecnocrati italiani. Si è tenuta a Vignola questa fiera del fumetto, questa grande kermesse dei ciliegi in fiore nella cittadina modenese, e nonostante il maltempo abbia amputato questa rassegna della domenica, il sabato ha mostrato ancora una volta tutta la vitalità del mondo del fumetto, con autori, stand, banchetti, mostre, incontri. Tra gli altri anche il CRAP aveva la sua postazione e tante cose da dire e da mostrare. Ma il nostro Willy è girato tra i banchetti, tra gli autori, per fare mille interviste, e tra queste voci ve ne riportiamo alcune che vanno a arricchire questa trasmissione. Alessandro Santi, che è sceneggiatore e disegnatore del mio eroe Geppo. L'occasione è stata i 70 anni di Geppo, quest'anno il personaggio compie 70 anni, e negli ultimi 2 anni mi sono dedicato a questo progetto. tutto, che va tutto a beneficio di Emergency, con la collaborazione e supervisione di Pierluigi Sangalli e Sandro Dossi e anche di Elisabetta Sangalli. E questo è stato per me uno stimolo importantissimo, perché questa idea che avevo anch'io da super fan di Geppo si è poi vista materializzare, e sono stati molto gli autori. Sangalli e Dossi sono gli autori principali di Geppo, quello che hanno trasformato il personaggio come lo conosciamo ora, che hanno dato un'anima al personaggio e anche graficamente come lo conosciamo oggi. E loro, nella loro insomma, proverbiale gentilezza, pazienza, hanno seguito tutte le fasi del lavoro. Sangalli mi ha onorato anche su bozzetto mio della copertina, lui che è stato il copertinista di tutti i numeri di Geppo. Insieme a Sandro Dossi hanno fatto pure la prefazione, quindi per me è un sogno realizzato. Ci credo. Uno dei momenti più belli di tutta la mia carriera nei fumetti. Ci credo. Beh, possiamo considerarlo, seppur in maniera ironica e pasticciona, uno dei primi anti-eroi? Ma sicuramente, Geppo è sicuramente un anti-eroe che è comicissimo, perché le storie fanno ancora ridere. Non è solo una nostalgia d'infanzia, anzi ci sono anche più chiavi di lettura, questo certo. Grazie anche molto spesso a Alberico Motta, che era stato lo sceneggiatore per più di 10 anni. Quindi sono personaggi, come dicevo, che hanno più chiavi di lettura. Ah, ma se ti rimane vuol dire che ci sono più chiavi di lettura, se no lo dimentichi. E poi c'è sempre questo riferimento alla nostra italianità, che è un fiore all'occhiello, se vuoi, no? Tutti i personaggi che fanno il verso al fumetto statunitense, invece Geppo si riconosce benissimo l'italianità, anche dell'inferno. Sì, certo. Un'azienda italiana. Sì, è strutturato. Una crisi. Sì, sì. E poi questi personaggi, per esempio, c'è inventato da Sangalli, c'è il serpente salvatore, il serpente tentatore. C'è Caligola, il gatto di Satana. E insomma, sono personaggi strepitosi portati avanti veramente con intelligenza e con tanta arte, tanto umorismo, come dicevo prima, anche da Sandro Dossi, che è stato quello che l'ha disegnato per tantissimi anni, l'autore diciamo più legato a Geppo. Fumettisti dal vivo, di che si tratta? Allora, Fumettisti dal vivo è un collettivo di autori principalmente della provincia di Modena che si occupa di raccogliere fondi a scopo benefico vendendo disegni originali, spesso, cioè la maggior parte fatti sul momento, poi qualcuno ne abbiamo sempre immagazzinato alla bisogna. Del nostro collettivo fanno parte Massimo Bonfatti, Claude, Cesare Buffagni, Luca Bozzoli, Roberto Ruini e tanti altri. Io stesso sono un disegnatore di fumetti. Giriamo per i festival, certo, per fare questa iniziativa. Negli anni abbiamo devoluto fondi agli alluvionati per la Romagna, Emergency, all'RSA di Formigine, che è un pensionato per anziani, a tante altre iniziative, sempre a scopo benefico. Abbiamo iniziato a fare questa attività per trovarci insieme, per divertirci, fare delle chiacchiere, scambiare esperienze. È iniziato tutto all'indomani del terremoto dell'Emilia Romagna nel 2012, e allora l'iniziativa si chiamava Mattoni a fumetti, perché avevamo raccolto una certa quantità di mattoni sui quali disegnavamo e li vendevamo per raccogliere questi fondi. Poi dopo 10 anni di questa esperienza abbiamo finito i mattoni, che dovevano essere una cinquantina, sono diventati 700. È venuto un bel palazzo. Sì, abbiamo fatto un bel palazzo, bisogna ammetterlo. E quindi abbiamo deciso comunque di mantenere in piedi questa attività benefica e abbiamo abbandonato i mattoni e siamo diventati fumettisti dal vivo. La satira per immagini. Siamo con Fabio Iuli, in arte Occhi caricature. Caricature, esatto, hai già esplicitato la parola magica in questa mia immediata definizione nel vedere i tuoi lavori. Può essere una satira riportata nel ritratto? Certo, si può anche vedere come satira, chiaro. Adesso la caricatura, a me piace definirla come un ritratto che ti coglie l'anima, perché diciamo vado a cercare quello che sono le particolarità, non difetti. Non mi piace quando uno dice ah prendimi i difetti ed esagera i difetti, non fammi mi il piace. Nasone no, es- no sì no. Il nasone magari sì, ma il nasone è bello perché è una tua particolarità, non è un difetto. Certo, sono d'accordo. Alcuni piace, alcuni no. Allora è bello andare a guardare la tua diversità e valorizzarla, metterla in evidenza. Siamo con Gian Lorenzo Inghirami per quanto riguarda il Betty Boop Festival. Gian Lorenzo, cosa presenti? Allora, io mi occupo ogni anno di organizzare una mostra di satira, quindi tra vignette, fumetti, strisce, che però hanno caratteristiche di essere prodotti satirici, quindi l'utilizzo dell'umorismo anche per fare una certa parte di critica sociale, di costume o quant'altro si possa prendere in giro. Ecco. E i protagonisti chi sono in questo caso? In questo caso abbiamo 37 autori italiani che si sono misurati sul tema dei supereroi, la meravigliosa avventura di esseri umani. Come ogni argomento riguardante la satira, questo è solo un pretesto per parlare poi di un sacco di cose. E anche in questa mostra si parte appunto dai supereroi classici. Marvel, DC. Esatto, per parlarne in un modo un po' strano rispetto al solito, magari un Batman che vede il richiamo dell'INPS e quindi dice meno male. Beh, ma, del resto il tempo passa per tutti. Esatto, oppure anche si arriva a parlare di quelli che possono essere supereroi moderni, ecco, Gino Strada, ma anche Matteotti, e quindi ci sono ritratti diversi personaggi che possono essere considerati dei supereroi per le loro scelte anche un po' difficili e delle quali hanno pagato anche un prezzo. Sì, delle conseguenze non indifferenti. E gli autori chi sono, così magari velocemente? Tra gli autori abbiamo Anarchic, Mauro Biani, abbiamo Fabio Magnasciutti, abbiamo Walter Leoni, abbiamo Gianluca Costantini che ha portato diverse sue cose che riguardano un po' più l'attivismo sociale, oppure abbiamo Bruno Bozzetto che ci ha portato il suo VIP Mio Fratello Superuomo e quindi una cosa che i più piccoli ricorderanno con piacere. E oppure c'è anche la citazione di Sandro Dossi, disegnatore storico di Braccio di Ferro, del Braccio di Ferro italiano, che io considero il primo supereroe della storia del fumetto, se vogliamo. Giusto. Siamo arrivati allora alla fine della nostra trasmissione. Chi volesse sapere di più del materiale trattato, se volesse anche riascoltare l'intera trasmissione, i siti sono ilpioniere.org o www.radiocittafugico.it. Ciao a tutti, alla prossima.